Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Oh mio caro tesoro, oh mio dolce amore, conterò le ore che tu sei via. Oh tesoro adorato, anch'io. No, non sulle labbra. Cosa? Vado a quel party di Nanna e Nicky più tardi, non voglio avere sbaffi di rossetto, oh. Capisci? Ma certo. E carrozza! Oddio. Beh, credo che ci siamo. Freddy, tesoro, oh, come faccio a dire in 2 minuti quello che mi ci è voluto tutta una vita comprendere? Perché non provi? D'accordo. Sei tutto maschio. Sono tua, fai ciò che vuoi di me. Che altro posso dire? Mio dolce amore. I capelli! Vengo adesso dal parrucchiere. Scusa. Spero che ti piacciono le nozze all'antica. Preferisco le notti di nozze all'antica. Sei incorreggibile. Vorrebbe dire che mi ami. Ci puoi scommettere le mutandine. Oh, mio unico amore. Taffetà, caro. Taffetà, tesorino. No, il vestito. E di taffetà si sgualcisce. Oh. In carrozza! Buongiorno, è arrivato anche per noi il giorno dell'addio, quindi circospezione negli abbracci, mi raccomando, cerchiamo di salutarci senza stropicciarci il taffettà. Ma non è solo il giorno del nostro addio, è anche quello di tante amicizie estive, quelle nate il primo giorno che avete messo piede in spiaggia e che al ritorno a casa sono finite. Quanti cuori infranti avete lasciato alle vostre spalle quest'estate o una particolare estate della vostra vita? In questo viaggio fatto insieme abbiamo trattato l'amore altre volte, vi ricordate? All'inizio per parlare di quelli che si mollano prima di partire, a metà per parlare di quelli che sotto l'ombrellone scoppiano e adesso che il viaggio è finito dobbiamo occuparci di quelli che si sono innamorati come ogni anno proprio in vacanza, per poi tornare alla propria vita di tutti i giorni e dimenticarsene. L'amore, tema che ha riempito pagine e pagine di letteratura. Come potevamo non riempire l'ennesima, nonché l'ultima puntata di Agosto, tecniche di sopravvivenza? Cioran l'ha detto, mi piace Cioran, si sarà capito. Se Adamo fosse stato fortunato in amore, ci avrebbe risparmiato secoli di storia. E noi, aggiungo io, di quei secoli di storia avremmo sentito terribilmente la mancanza. Ecco perché non perdiamo l'occasione di parlare di amore, ma non l'amore qualunque, bensì l'amore estivo. Non so proprio dove abbia sbagliato, non riesco a crederci. In qualche modo lei è sbollita per me. Sarà per qualcosa che ho fatto? Non è mai per qualcosa, la gente è fatta così. L'amore svanisce. L'amore svanisce? Dio, che pensiero deprimente. Pensiero deprimente, è vero, l'amore svanisce e lo fa molto più in fretta del normale se si tratta del classico amore nato in vacanza. Voi come siete messi? 800 24 0024 per raccontarcelo in diretta e 349 238 6666 per gli sms. Avete lasciato voi, vi ha lasciato lei o lui? Com'è andata quella volta che siete dovuti partire per tornare a casa? Magari l'amore che state vivendo proprio adesso e che sapete già che finirà. È un po' come se si sapesse prima, di solito, no? Ci sono addirittura gli specialisti della storia estiva. Ne avete mai incontrati? Al di là dei soliti animatori dei villaggi, di cui si fa un gran parlare, ne abbiamo parlato anche noi. Ci sono i bagnini, i maestri di tennis, i barman, le hostess, le ragazze immagini della discoteca, i maestri di ballo, i cantanti di piano bar. A quest'ora ti presenti disgraziato, puntuale fin dal primo giorno, Calma Oscar, stai schiacciatino. Guarda che se io vengo ancora a far musica qua nella tua baracca è solo perché mi sei simpatico. Sì. Sta a sentire Gershwin, se quest'anno mi combini i soliti casini con le clienti, anda, ti sostituisco con l'organista della chiesa, che poi cosa ci troveranno le donne in un pupazzo come te, ma... Non sono bello, piaccio. L'estate aiuta, si ha più tempo libero, meno stress, più libertà e poi il risveglio degli ormoni che bussano al vostro cuore e non solo. Arriva proprio con la bella stagione. Ah, fra l'altro più tardi avremo con noi al telefono proprio lui, Jerry Calà. E aspettando di parlare con lui, raccontateci voi delle vostre storie del mare all'800 24 0024 o al 349 238 6666 per i vostri sms. Quante avventure avete collezionato e come siete sopravvissuti all'addio? O quali storie estive magari si sono trasformate in veri e propri amori? Facciamo così, sarà una puntata di confessioni, anche l'occasione per dire a lei o a lui che si aspettano di rivedervi che è finita, o per chiedere scusa per quella volta che poi non vi siete fatti più sentire. Never fall in love again. agosto, tecniche di sopravvivenza. Si parla degli addii dell'estate, di storie che finiscono con il finire delle vacanze, di amori che durano giusto quelle due o tre settimane delle ferie. Volete chiedere scusa per quella volta che ve ne siete andati senza lasciare nemmeno un biglietto? O magari per raccontarci le vostre storie dell'estate? 800 24 00 24 per farlo in diretta, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. E abbiamo già un ascoltatore che ci vuole raccontare della sua storia dell'estate. Fausto da Roma. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua storia? A tutti gli ascoltatori, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei per aver chiamato. Le storie estive sono tante. Adesso, diciamo che si ripetono anno per anno, credo che per tutti sia stato un po' così, e per i giovani soprattutto è così, immagino, almeno me lo auguro per loro. Giustamente. Perché niente, io volevo soltanto così dire che ho conosciuto mia moglie proprio in vacanza. Uh-huh. Non è stato certamente un amore estivo soltanto, perché abbiamo appena festeggiato i 44 anni di matrimonio. 44 anni! Sì, sì. Beh, direi allora in controtendenza una storia estiva che dura tutta la vita. Sì, sì, beh, direi almeno ormai. 44 anni, un bel traguardo. Un bel traguardo. Sì. Complimenti, Fausto. Grazie. Grazie a lei per aver chiamato. Prego, prego, e buon proseguimento di trasmissione. Grazie, buona giornata. Seguirò per radio con molto interesse. Grazie. Grazie. Ma adesso, come abbiamo promesso, abbiamo con noi al telefono Jerry Calà, che con i suoi film ha contribuito a creare il nostro immaginario dell'amore estivo. Ciao Jerry! Ciao, ciao! Sì, infatti, sembra appunto la trama, ecco, tanto per dirne uno per tutti, Sapore di mare, no? Eh già. Il tipico film dove l'estate, forse dei marmi, arrivano i ragazzi, si conoscono, qualcuno c'ha la fidanzata a Milano che poi arriva, intanto uno si è fidanzato, però insomma creano il tipico plot, hai capito, estivo. Ma ci sono delle tecniche di sopravvivenza che possiamo dare agli ascoltatori per chi è tornato da un viaggio e ha lasciato là il cuore? Cosa si può fare? Ma secondo me le ferite si rimarginano automaticamente, perché non ho mai visto nessuno morire d'amore per il ragazzo del mare, almeno una volta si diceva così, no? Ragazzo, sentivo le ragazze che tornavano a casa, il mio ragazzo del mare, oppure la mia ragazza del mare, perché è come se uno lo sapesse, no? Si entra in un'altra dimensione, in quella dimensione succedono delle cose che poi si durano il tempo della vacanza, poi quando si rientra nel proprio mondo, nel lavoro, nella propria città, sembra che tutto insomma svanisca quasi automaticamente, salvo chiaramente qualche eccezione che invece poi consolida invece queste unioni che poi diventano molto importanti. Ecco, in tutte le tue estati hai avuto qualche, non so, è successo qualche storiella, è successa qualche aneddoto che ci vuoi raccontare relativamente a questo? Ma guarda, io qualcosa che si può raccontare. no, nel senso che figurati, poi io in più quando ero ragazzo, voglio dire, oltre ci lavoravo nei posti di vacanza, quindi ne cambiavo uno quasi al giorno, no? Per cui insomma immagina, mi ricordo con i miei compagni gatti di Vicolo Miracoli da ragazzi, insomma così che facevamo gli spettacoli tra Rimini, Riccione, Forte dei Marmi, la Sardegna, le cose così. Insomma, puoi immaginare, lì le storie addirittura erano delle storie lamp. Erano veramente mordi e fuggi. Quindi ma anche perché poi se hai un ruolo particolare, appunto come l'intrattenitore, così si diventa ancora più... È chiaro che c'è un vantaggio. Certo. Ecco, secondo me i più grandi sciupafemmine al mondo sono gli animatori dei villaggi. Ecco, quelli sono terribili. Quelli sono terribili. Sembra che addirittura delle ragazze vadano proprio a colpo sicuro nel villaggio per avere una storia con gli animatori. Tanti anni fa io ho fatto, non so se ti ricordi, una serie televisiva di grande successo su Italia 1. E certo che me la ricordo. Professione vacanza. Ma certo. Ecco, e tu pensa che io per fare quella serie siamo andati a intervistare per scriverla con gli autori, appunto i ragazzi della Valturno, che ci raccontavano cose che insomma erano anche inimmaginabili. Beh, figurati, al di là di ogni immaginazione la realtà poi supera l'immaginazione. La realtà supera, addirittura ci raccontavano di cose limiti. Comunque ricordati, io l'ho detto in un film di qualche anno fa, appunto, che ho fatto, Vita Smeralda, no? Dove raccontavo le avventure della costa più famosa della Sardegna, e c'era un motto che diceva: d'estate tutto corre più velocemente, perché l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo. Beh, che meraviglia, grande Jerry. Questo ti dice tutto, perché cosa vuol dire? Che non è tanto il luogo di vacanza, non è tanto l'estate, è il fatto che una volta all'anno uno semelinanno licet insanire, cioè uno vuole lasciarsi un po' tutto dietro. E io penso che anche quando ci si sposa bisognerebbe fare un contratto matrimoniale in cui almeno, non so, una settimana all'anno uno c'ha dei buoni che può consumare quando vuole, anche di tutto, ma sia per uomini e per donne, perché fa bene. Certo, grazie mille Jerry. Ok, ciao. Ciao, presto. 800 24 0024 per parlare con noi e raccontarci delle vostre storie estive. Siete come Fausto, che ha conosciuto durante una vacanza la moglie, adesso da 44 anni sono sposati, o la pensate come Jerry Calà, insomma, che bisogna anche lasciarsi andare un po' durante l'estate. E adesso, a tutti gli innamorati delusi e no, voglio dedicare una poesia di Jacques Prévert, poesia presa da Amore e Libertà. Amore e libertà, ricordatelo bene, e si chiama Per fare il ritratto di un uccello. Chiudete gli occhi e fate con noi il vostro ritratto. Per prima cosa, dipingere una gabbia che abbia la porta aperta, quindi dipingere qualcosa di grazioso, qualcosa che sia semplice, qualcosa che sia bello, qualcosa di utile per l'uccello. Mettere poi la tela contro un albero, in un giardino, in un bosco o in una foresta, nascondersi dietro quell'albero senza dire niente e senza muoversi. Talvolta l'uccello arriva svelto, ma può anche metterci anni ed anni prima che si decida. Non scoraggiarsi, aspettare. Aspettare, se occorre, anche per anni. La rapidità o la lentezza dell'arrivo dell'uccello non ha nulla a che fare con la riuscita del quadro. Quando l'uccello arriva, se arriva, osservare il silenzio più assoluto, aspettare che l'uccello entri nella gabbia e, quando l'avrà fatto, richiudere dolcemente la porta col pennello. E poi cancellare una per una tutte le sbarre, avendo cura di non toccare le piume dell'uccello. Fare a questo punto il ritratto dell'albero, scegliendo il suo ramo più bello per l'uccello. Dipingere allora il fogliame verde e la freschezza del vento, il pulviscolo del sole, il rumore degli insetti nascosti nell'erba, nella calura estiva. Poi aspettare che l'uccello abbia voglia di mettersi a cantare. Ma se non canta, è un gran brutto segno. È segno che il quadro è venuto male. Ma se canta, invece, è un buon segno. Segno che il lavoro va firmato. E quindi voi strapperete con grande dolcezza a quell'uccello una sua piuma e scriverete il vostro nome in un angolo del quadro. Dopo un momento così alto, scendiamo sulla terra e chiediamo ad un altro ospite se ci sono delle tecniche di sopravvivenza per gli amori dell'estate. È Paolo Migone, comico di Zelig. Ciao Paolo! Buongiorno a tutti, sono Paolo Migone, comico di Zelig. Per essere più precisi, giustamente. Senti, ma tu hai delle tecniche di sopravvivenza per questi addii o ne hai avute? Ma mi ricordo questo saluto, eravamo due barche a vela e c'era questa Silvia, di cui mi ero perdutamente innamorato, e c'è stata questa ultima notte sotto la luna che veramente io già dire no, non voglio sapere nulla di te, indirizzi, cartoline, non voglio il numero di telefono. E invece poi alla fine mi sono preso tutto, gli ho fatto anche una foto tanto per non farsi mancare nulla. Quando finisce l'estate, mi ricordo, dopo 2 o 3 mesi andai a trovarla a Milano e io ero emozionatissimo, mi venne a trovare con il fidanzato. E penso, no! Io ho guardato lei mi ha guardato fidanzata, ho alzato la testa vedendo l'orario dei treni di ritorno, perché volevo lasciarla. Lasciarla su. E quindi tecniche di sopravvivenza in quel caso, qual è stata la tua tecnica di sopravvivenza? Mi ricordo che poi ci lasciò a casa sua da soli io e lui dopo un silenzio di 3 ore. Io per rompere il silenzio dissi, perché lui si occupava di moda, ma di quest'anno quali sono i colori che andranno? Perché non sapevo proprio cosa dirgli. Mamma mia. Mi rispose in maniera proprio sintetica, pastello. Pastello. E dopo pastello ci furono altre 3 ore di silenzio. Beh, questo è un ricordo dolorosissimo di questo approccio. Posso immaginare. E sicuramente non avrai indossato abiti pastello per quell'anno. No, mi sono vestito di nero per dava rabbia. Ma senti, ma ci sono delle differenze di approccio tra uomo e donna relativamente a questi? L'uomo è d'estate, cacciatore, capito? Camicia aperta fino all'ombelico, un po' di profumo e vuole così l'avventurina veloce, capito? Invece penso molte ragazzine poi vorrebbero questa cosa continuasse, no? Ma ti è capitato quest'anno, per esempio, di vedere, non so se sei stato in spiaggia, al mare o comunque in giro, di vedere questi sguardi tristi perché si stanno per lasciare, questi amori che lo capisci subito che sono quelli dell'estate? Sì, abbracciati talmente sconvolti che in mezzo all'abbraccio c'era anche l'ombrellone. È finita l'estate. Senti Paolo. Hanno litigato perché ci ha portato via l'ombrellone. Ma ti vediamo ancora in giro con il tuo spettacolo anche a settembre, vero? Sì, cioè questo spettacolo è completamente spettinato, ho la fortuna di avere un sacco di gente che mi segue. Ho fatto un'estate piena di pubblico, sono molto contento. Bene, benissimo. Allora, buona fortuna anche per settembre. Grazie. Grazie a te, ciao. Vabbè, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:34, oggi ad agosto tecniche di sopravvivenza, si sta parlando degli amori e delle amicizie dell'estate, quelli che finiscono con la vostra o la sua partenza, ma non dimentichiamoci neanche degli amici, quegli amici che si incontrano in estate, quelli con i quali siete usciti tutte le sere per 15 giorni di fila, vi siete giurati di programmare il prossimo viaggio. E poi tornate a casa, nemmeno vi ricordate come si chiamano. Beh, forse adesso con Facebook è un po' più difficile, ma una volta quando ci si doveva scambiare l'indirizzo di posta, ci si doveva scrivere, hai voglia di rimanere amico. Si fatica a rimanere uniti col miraggio del sentimento, o meglio del sesso, figuriamoci a rimanere solo amici. 800 24 00 24 per parlare in diretta con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. E abbiamo Graziano da Bergamo. Ciao Graziano. Ciao. Ciao. Grazie. Della chiamata. A me infatti è successa una cosa del genere. Io sono partito, intanto siamo nel 1989, parto per un viaggio in moto in Francia e in Spagna, e in Spagna incontro questa ragazza, Jeannick Lepi, quindi per alcuni giorni ci si incrocia gli occhi in maniera furbesca, fino a quando poi insomma la cosa si concretizza e nasce l'amore estivo, quindi bella storia, tante parole, tanti abbracci, lasciamo perdere il resto. Tante promesse, dai. Brava. Arriva il momento di partire per ognuno per casa propria, lei per Parigi, io per l'Italia, scambio di indirizzi, allora a settembre arrivo subito, lasciami il tempo di organizzarmi, poi facciamo, non facciamo. Bene, ciao ciao, occhi lacrimanti, partiamo, ci dividiamo. Io quando arrivo poi nei dintorni di Barcellona, caspita, ho subito un furto e mi hanno rubato il portafoglio. Nel portafoglio naturalmente c'era l'indirizzo di Jeannick, no. Non era era di cellulare, non era era di internet, io e il mio grande amore parigino ce l'ho nel cuore, nella testa e nient'altro. Ma no, Graziano, e quindi Jeannick, basta? Basta. Vabbè, nel ricordo, dai, allora, facciamo certo. Così. Non so, vuoi dire qualcosa? Tanto Jeannick sicuramente da Parigi ci sta ascoltando. Sì. Intanto ho capito che non l'hai chiamata perché hai perso il portafoglio, dai, mettiamo così. Perché no, poi... lei non avrà sicuramente capito, lei avrà pensato, pensa quant'è italiano. Questo che arriva. Quindi invece non era assolutamente vero, io ero perdutamente innamorato di questa ragazza. Pace al destino. Vabbè, il destino. Grazie mille, Graziano. Ciao ciao ciao. I vostri sms al 349-238-6666. Quest'estate ho flirtato con il capo animatori del villaggio dove ho soggiornato. Non so se lo rivedrò, ma ho passato 2 settimane tra risate e feste. Oppure Giulio da Pavia. Ho conosciuto la mia ex in vacanza. Sarà per questo che è durata poco. Francesca da Roma. Avevo 16 anni e dopo una vacanza in campeggio sul lago mi sono innamorata di un ragazzo di Amburgo. Gli ho lasciato il mio indirizzo, ma non ho mai scritto. Forse ha perso anche lui il portafoglio come Graziano, non lo so. Non so se ci sono delle spiegazioni, ma adesso vediamo quali amicizie e o amori estivi si sono consumati nella storia. 3 settembre 1911, a Parma, Dorando Pietri corre e vince la sua gara d'addio. Uno dei suoi pensieri sarà certamente andato ai nuovi amici che nell'estate del 1908 lo aiutarono a tagliare il traguardo nelle Olimpiadi di Londra. 3 settembre 1969. In Inghilterra il Daily Mirror utilizza per la prima volta l'espressione skinhead per definire il movimento dei giovani con i capelli corti evolutosi dai mods. Il giornalista in questione non si sarà fatto molti amici tra le teste rasate. 3 settembre 1885. Ultimi ritocchi a New York nel primo locale pubblico chiamato Caffetteria, che apre l'indomani. Quanti amici si sono dati appuntamento proprio qui per un caffè? Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di amici e di amanti dell'estate, quelli che nascono, si sviluppano e finiscono nell'arco di una vacanza. Vi è capitato di essere vittime o carnefici della storia estiva? L'avete rivista dopo qualche mese e, come è successo a Migone, si è presentata col fidanzato? 800 24 00 24 per parlare con noi e 349 238 6666 per gli sms. Magari anche se volete chiedere scusa, se volete comunicare via radio che è finita e che quindi non ci si deve illudere, perché non vi rivedrà più. Ma queste cose sono cose che succedono, abbiamo sentito prima anche gli ascoltatori, di solito quando si è giovani, così spensierati, adolescenti, e si vuole vivere la vacanza a pieno. E visto che appunto si parla di giovani, non possiamo non parlare con chi ne ha fatto dei film e dei romanzi di successo per capire, insomma, come sopravvivono agli amori estivi gli adolescenti. E ne parliamo con Federico Moccia. Ciao Federico. Ciao, come va? Bene, grazie. E tu? Bene, bene, tutto bene. Bene, come hai passato quest'estate? Bene, tranquille, un pochino di montagna, un pochino di mare, e quindi con il piacere di un tipo d'aria, un tipo di atmosfera, anche un tipo di sapore rispetto a un altro. Per fortuna non c'era troppa gente, è stata una bella estate, a volte anche leggermente fredda rispetto a quelle che erano le estate molto acute di alcuni periodi precedenti. Sei riuscito a trovare qualche spunto per nuovi romanzi, qualche, non so, qualche incontro che è avvenuto proprio in spiaggia magari o in montagna quest'estate? Ma alla fine, in maniera secondo me quasi subliminale, capita spesso inevitabilmente di curiosare nella vita altrui e qualcosa ti rimane come appiccicata addosso. Poi esce alla distanza forse, comunque io credo che uno scrittore non sia altro che un ladro, uno che ruba con gli occhi e che poi trova la sua chiave per raccontare tutto ciò che ha vissuto o visto. Certo, visto che oggi stiamo parlando degli amori estivi, tu hai delle tecniche di sopravvivenza o hai avuto delle tecniche di sopravvivenza per quegli amori che sono nati durante una vacanza e che poi così sono sfioriti una volta tornati a casa? Quello può capitare inevitabilmente, così come è successo a me all'età di 20 anni. Così. Mi ricordo che alla fine, per obbligarti a in qualche modo a non chiamare, a saper resistere e all'ipotesi, anche se lontana, che il tempo in qualche modo possa lenire quelle che sono le sofferenze d'amore, mi davo dei programmi, cioè comunque cercavo di fare delle cose. Mi ricordo che comunque dovevo star bene, quindi cercavo di organizzarmi, giocare a calcetto, giocare a pallone con gli amici, giocare a tennis, e comunque la mattina quando uscivo magari in vesta, cantare e cercare, mi potevo dare, concedere solo alcuni minuti della giornata per ritornare a pensare a quella lì che purtroppo mi ha mollato. Senti, ma secondo te c'è anche una differenza di approccio agli amori estivi in base all'età? Cioè quando si è più giovani, tu hai detto 20 anni, è successo anche a me, è diverso rispetto all'età più adulta? Ma no, io credo che quando si ami veramente non ci sono distinzioni. È chiaro che purtroppo a volte si è disincantati, cioè piano piano si perde quello che era il romanticismo, no? Però questo non accade in tutti, cioè secondo me sono le classiche cose per le quali sia per un ventenne come per un quarantenne in qualche modo non si possa generalizzare, perché poi dipende dai caratteri, dalla capacità di mettersi ancora in gioco, la forte componente emotiva, ogni storia è diversa, ogni momento è diverso, quindi io credo che non si possa fare un paragone ed essere così netti, perché sarebbe anche togliere il romanticismo di per se stesso ad ogni età. Chiaro, l'amore non è una cosa anagrafica, quindi non è una questione anagrafica, vale a tutte le età. Certo, assolutamente, secondo me assolutamente, soprattutto se ci si scopre e si vive con grande sorpresa un amore che arriva improvvisamente quando si è molto più adulti, perché non te l'aspettavi e perché non ti aspettavi di quel tuo tipo di atteggiamento rispetto a quello che ti ricordavi o rispetto a quella che ti sembrava essere la tua sicurezza. Certo, beh, grazie Federico. Un'ultima cosa prima di salutarci, la tua tecnica di sopravvivenza, quello che vorresti dire agli ascoltatori, come si fa a sopravvivere al ritorno da una vacanza se poi si è stati mollati, oltre a di tenersi impegnati come tu hai detto, cioè in una parola che cosa bisognerebbe fare? Ma quello secondo me è la cosa più importante, e quindi concedersi solo alcuni piccoli brevi spazi per tornare quasi al lutto a pensare sempre alla stessa cosa, questo in generale, perché tanto non c'è via d'uscita e quindi poi alla fine in qualche modo la mente, che è abituata a trovare soluzione, va a gira come a loop e si consuma, e quella è la formula secondo me che poi ti dà in qualche modo ad un esaurimento, quindi attività sportiva, amici, serenità e pensare con ottimismo all'occasione che sta sempre dietro l'angolo. Grazie mille Federico, ciao. A te, ciao. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 0024 per parlare con noi in diretta e raccontarci dei vostri amori estivi, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Un'ascoltatrice non si firma e dice: meglio non vedersi più con gli amori estivi, siamo altre persone dopo, perché in vacanza diamo il meglio di noi stessi. Oppure ho conosciuto il mio compagno Riccione nel 1997, avevamo 17 anni, è stato amore a prima vista, stiamo ancora felicemente insieme. Roberta. Oggi esco prima dal lavoro, destinazione Roma, per raggiungere la mia nuova ragazza conosciuta 3 settimane fa a Capalbio, Eugenio. L'estate scorsa ho conosciuto un gruppo di ragazzi di Foggia, simpaticissimi. Quest'estate per le vacanze li ho raggiunti, Luca da Roma. Insomma, quali sono le vostre storie degli amori dell'estate, amori o amicizie, quelle che iniziano quando inizia la vacanza e che di solito finiscono proprio quando finisce la vacanza e si torna a casa. Però poi bisogna anche non generalizzare, non è detto che finisca sempre quando lei o lui parte, a volte basta saper aspettare. Io devo prendere l'aereo. Andiamo tu, andiamo, non devi andarci per forza. Oh, non potevi dirmelo la settimana scorsa. 6 mesi. Senti, 6 mesi non sono tanti. E non è che tutti si guastino. Bisogna avere un po' di fiducia, sai, nella gente. Sì, bisogna avere fiducia un po' nella gente, è vero. E voi come vi state comportando con i vostri amori dell'estate? 800 24 0024 per parlare con noi e 349 238 6666 per la telefonata. Abbiamo Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Qual è la tua storia dell'estate? Allora, è una storia che risale ancora al periodo delle superiori, quindi si parla di una decina di anni fa. E niente, io semplicemente mi ero invaghito di una ragazza di Milano, tra l'altro io sono di Verona, e durante una mia gitarella, insomma, San Benedetto del Tronto giù nelle Marche, ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati un po', e si facevano queste lunghe passeggiate sulla spiaggia, insomma, molto romantico, devo dire. E a un certo punto, niente, è finito il solito periodo estivo delle due settimane, ci siamo dovuti lasciare, ci siamo scritti lettere durante l'anno e, ahimè, l'anno dopo io sono tornato a sorpresa perché volevo fargli una sorpresa. Sorprese, no? Le sorprese, sì. E l'ho vista sulla spiaggia negli stessi camminamenti che abbiamo fatto noi con un'altra persona. E quindi, insomma, però devo dire che si impara anche da questo, perché in qualche modo si capisce che l'amore estivo è un amore che dura proprio il periodo dell'estate. Certo, certo. Settimane, ma hai avuto il coraggio di fermarle, di parlarle quando l'hai vista? Sinceramente no, ho fatto un po' il codardo, mi sono nascosto, ho guardato cosa faceva, poi gli ho scritto una lettera facendo finta di essere ancora nella mia città natale e dicendo che sarei venuto giù di lì a poco, giù nelle Marche. Per vedere se lei usciva allo scoperto, l'hai fatto. Esattamente, non è successo niente. Io quando sono arrivato, lei ha avuto il candore di dirmi: guarda, è durata l'estate scorsa, adesso c'ho un altro. Ho detto, ecco, okay, vabbè, va bene. Brava, è stata brava, dai. Sì, è stata sincera, questo è poco ma sicuro. Grazie mille Riccardo, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. I vostri sms al 349-238-6666. L'anno scorso ho dato il numero di telefono sbagliato a una ragazza che mi ha corteggiato per tutta la settimana di ferie. Cattivo, Luca? Forse è un po' cattivo, sì. Ma insomma, stiamo parlando degli amori dell'estate, delle amicizie che finiscono quando poi si torna a casa, perché finisce l'estate. Ma c'è un modo per rifarsi, per cercare nuovi amici, nuove fiamme, nuove occasioni. E noi ne parliamo con, sembrerà strano, un ingegnere meccanico che ha una grande passione per i libri e che si è inventato il Book Date, Mario Sancineto. Ciao Mario. Ciao, ciao a te Morena e a tutti i radioascoltatori. Mario, allora come nasce questa tua passione per i libri? Tu che sei un ingegnere meccanico. Certo, sembrerà strano, ma in realtà anche gli ingegneri meccanici leggono. Quindi, giusto. Quindi io da molto tempo coltivo la passione dei libri e sono coordinatore di due gruppi di lettura, uno in provincia di Varese a Carono Pertusella e uno in Monza Brianza a Lazzate. Quindi da sempre i libri mi hanno appassionato e questa passione mi ha spinto ad essere anche attivo nel campo culturale e ad inventare eventi socioculturali che possono permettere tanto la diffusione del libro quanto la conoscenza di nuove persone. E quindi come nasce questo Book Date? Book Date nasce proprio con questo intento, la possibilità di creare delle nuove amicizie e personalmente ho anche verificato dei nuovi amori da persone che hanno e nutrono la profonda passione dei libri. E come funziona questa cosa? Cioè ci si iscrive ad un book date? Com'è? Certo, allora il gioco si articola in due fasi. Ovviamente a monte di queste due fasi c'è l'iscrizione che è possibile fare sul nostro sito che è www.thebookdate.com oppure il giorno dell'evento in cui il book date viene realizzato. Dicevo, il gioco si articola in due fasi, una fase che potremmo chiamare di date vero e proprio, cioè l'incontro, è una fase di book crossing in cui c'è uno scambio dei libri. È fondamentale e assolutamente obbligatorio portare con sé per partecipare al gioco un alleato, in questo caso l'alleato è il libro. Quindi il libro che mi rappresenta, io porto con me. Esatto. Ho capito, esatto. Quindi mi faccio conoscere attraverso il libro che mi piace tanto, quindi uno scrittore, un romanzo, un saggio, qualunque cosa. Perfetto, poi la nostra idea si basa sul fatto che i libri non sono altro che specchi in cui ognuno di noi trova riflessa l'immagine di ciò che ha dentro e quindi pensiamo che su questo concetto la conoscenza tra persone possa essere facilitata da un libro che aiuti anche ad abbassare la schermatura sociale che certo. Si ha nel conoscere nuove persone. Certo, ho capito, ma ce n'è qualcuno adesso di questi book date in previsione, perché vogliamo dare ai nostri ascoltatori la possibilità magari anche di raccontarsi attraverso i libri che hanno letto durante l'estate sotto l'ombrellone o in montagna. C'è un appuntamento prossimo? Abbiamo un appuntamento il 22 settembre, che è un mercoledì, alle ore 20, presso il caffè della Mondadori Media Center in via Marghera a Milano. Aha, e quindi ci si presenta con un libro? Ci si deve iscrivere? Si presenta con un libro, si può iscrivere attraverso il nostro sito oppure direttamente la sera dell'evento. E al momento dell'iscrizione viene attribuita ad ogni persona un alias, quindi un'identità letteraria che servirà per giocare, e ogni persona avrà la possibilità di fare degli incontri con delle persone con cui il punto in comune è davvero forte, come dicevo, è assolutamente il libro. Al termine di questa serie di incontri arriva la seconda fase, che è quella che a me piace particolarmente, che è quella di scambio dei libri, per cui si ha anche la possibilità di regalare il libro che si è portati all'evento a una persona verso cui si nutre un interesse particolare. Senti Mario, tu hai una tecnica di sopravvivenza per le amicizie dell'estate, quelle che appunto nascono magari il primo di agosto e poi svaniscono dopo le vacanze? Hai una tua personale tecnica di sopravvivenza? Io la tecnica di sopravvivenza l'ho ideata col book date, perché ho già coinvolto tutte le amicizie nuove che ho avuto il piacere di fare quest'estate, invitandole a scoprire la bellezza di Milano e, perché no, a partecipare al book date il 22 di settembre. Fantastico, grazie mille Mario. Allora, per partecipare, www.thebookdate.com. Grazie a te, Maria. Grazie, ciao Mario. 349-238-6666 per i vostri messaggi. La cosa più terribile è rincontrare un amore estivo e lui non si ricorda di te, mentre per te torna nei ricordi. Fiorella, ecco, gli amori estivi. E adesso via con l'ultima scheda delle nostre tecniche di sopravvivenza. Prima di fare progetti con lui o con lei, cerca sempre di leggere la sua data di scadenza. La riportano tutti e di solito è scritta in fronte. 2. Non farti ingannare dal preferibilmente. C'è ancora qualche giorno di utilizzo, ma poi anche l'amore più fresco irrancidisce. 3. Se decidete di vedervi anche dopo le vacanze per capire se c'è spazio per un futuro insieme, conta le volte che lui ti parla di sua madre. Quando supererà la decina, è ora di mollare. 4. Usa senza timore la mitica Rossella O'Hara. Nel suo domani è un altro giorno. Fa sempre figo e soprattutto non impegna qualora si volesse cambiare idea. 5. E poi, se fine deve essere, che sia almeno una happy end. Eccoci arrivati anche noi alla fine del viaggio. Sì, l'ultima puntata di agosto, tecniche di sopravvivenza. Vi ringrazio tutti, vi abbraccio tutti. Un grazie enorme a Vittorio Mussini e Laura Faggini in redazione, perché senza di loro non sarebbe stato possibile il viaggio. E un grazie anche a Fabio Cantadori, che è tornato in regia con noi per questa ultima puntata. Grazie, è tutto. Vado. A presto. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia. Si potrebbe vedere la fine. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.